Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Come è noto, affinché possa affermarsi, alla viabilità elettrica servono due ingredienti fondamentali: veicoli elettrici a prezzi ragionevoli e una infrastruttura di ricarica abbastanza capillare, insomma, da non rendere la ricarica stessa una specie di impresa eroica. Ebbene, lo sviluppo di quest'ultima, dell'infrastruttura di ricarica, è stato fin qui appannaggio soprattutto delle grandi utility e multi-utility attive nel mercato elettrico, che vedono le colonnine come una naturale estensione della loro rete di fornitura di energia. Finora però il risultato degli sforzi delle varie Enel, A2A, Acea, Era, eccetera, eccetera, non si può certo definire entusiasmante, se è vero che in tutta Italia ci sono circa 600 colonnine di ricarica. Abbiamo decine di milioni di veicoli. Stasera allora vogliamo parlarvi di una iniziativa, si chiama Evability, ed è una strada del tutto diversa per far crescere l'infrastruttura di ricarica elettrica. Buonasera Nadia Magni. Buonasera a lei e ai nostri ascoltatori. Allora, amministratore delegato di Evability, allora ci dica qual è questa nuova strada. Questa nuova strada è portare gratuitamente ai comuni delle stazioni di ricarica per i mezzi elettrici, gratuitamente per i comuni, perché i comuni sappiamo che non hanno dei problemi Di risorse economiche. Fate a portargliele gratuitamente? Noi gliele portiamo gratuitamente perché poi a nostra volta raccogliamo degli sponsor, sono sponsor di aziende locali, nazionali o provinciali, che hanno una sensibilità anche per l'ambiente, per il territorio, perché insomma. E sostanzialmente sono loro che pagano, sponsorizzandola, l'installazione di questo sistema di ricarica. Che più o meno come si presenta? Ecco, uno arriva lì, che cosa vede? C'è la solita colonnina, ma c'è qualcosa di più in questo caso? Sì, che arriva a queste postazioni di ricarica, noi ne abbiamo installate tre. Quindi siete proprio all'inizio? Siamo proprio all'inizio. Vede una pensilina dei bus. Con la copertura e con un pannello dietro la colonnina dove ci sono i nostri sponsor che hanno aderito al progetto e hanno la loro visibilità. Quindi tipo appunto una fermata del bus tappezzata di loghi sostanzialmente, con al centro una colonnina di ricarica. Una colonnina che gestisce contemporaneamente due veicoli indipendentemente, e poi ha una presa per le auto di tipo 2 e la presa di tipo 3C. Poi ha anche due prese per le moto di tipo 3A. E poi per utilizzare la colonnina, la ricarica, c'è il video touchscreen. Prima ci si registra sul sito e poi inserendo la tessera sanitaria esce l'autorizzazione, l'identificazione, per dire è andata la signora Nadia Magni oppure il signor Rossi, e le spiegazioni chiedono che tipo di presa vuole. Ecco, senta, e qui viene un aspetto importante, perché è vero che ci si identifica con la tessera sanitaria, ma non si paga in realtà la ricarica. No, non si paga perché c'è stato questo accordo per il primo anno con i comuni, in modo che loro forniscono gratuitamente l'energia elettrica, perché è una fase di sperimentazione. Noi pagando la tassa di occupazione di suolo pubblico, questa cifra viene utilizzata per l'energia elettrica. Noi chiediamo ai comuni il posto di due posti auto in modo che possono parcheggiare e il comune dà questo spazio. Sostanzialmente voi chiedete la concessione gratuita, l'uso gratuito di questi due posti auto. Che poi chi ha le auto elettriche, le moto oppure i furgoni può andare a ricaricare. Ecco, poi c'è un altro aspetto: questo spazio è, diciamo così, è contingentato, l'uso nel tempo soprattutto è contingentato. Sì, abbiamo stabilito con i comuni in modo da avere una maggiore fruibilità per tutti i cittadini che vogliono ricaricare, per un tempo uno può fare la ricarica un tempo da mezz'ora, un'ora oppure due ore, in modo che lui non ha... Ma non di più, insomma, non di più, se uno va lì e ci parcheggia non va bene, insomma. Altrimenti, e poi viene avvisato che è terminata la ricarica, se non è lì vicino all'auto, che è terminata la ricarica, di andare a prendersela, a prendere l'auto. Accettate richieste da tutto il territorio nazionale o operate in qualche area specifica? Noi accettiamo richieste da tutto il territorio nazionale. Va bene, insomma, amministratori, cari amministratori locali, se siete in ascolto, guardate che qui vi potete mettere delle, come dire, dei punti di ricarica per auto elettriche gratis. A buon intenditor, poche parole. Grazie Nadia Magni. Grazie mille a voi e buona serata a tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.